2024 di Enrico Pagliarini. Puntata del 6 dicembre 2008, benvenuti o bentornati a 2024, questo è il primo programma, la radio in Italia, dedicato alla tecnologia. Bentornati, un saluto da Enrico Pagliarini, questa è una puntata speciale, siamo in diretta, normalmente il nostro programma viene prodotto qualche ora prima o un giorno prima rispetto al sabato, invece oggi siamo in via straordinaria in diretta, sono le 15:28, potete partecipare anche voi, vi ricordo il nostro numero verde 800 24 00 24. Di che cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di televisori. Se oggi dovessi comprare una TV piatta, le idee chiare o chiederesti aiuto? Chiederei aiuto. Non ti è chiaro cos'è una TV piatta, come funziona? Sì, però ovviamente non c'ho delle idee prefissate, no? E la differenza tra un plasma e un LCD invece ti è chiara? No, assolutamente. Cos'è l'alta definizione? Terza domanda. Alta definizione? Non la so definire, però è alta definizione. Si vede, come si vede meglio. No, non sono preparato su questi argomenti. Beh, sicuramente molti si fanno domande su questo prodotto, che è uno dei prodotti del desiderio, sicuramente uno dei regali più desiderati per il prossimo Natale. Oltre al numero verde per partecipare con le nostre domande, i vostri dubbi sulle TV, al plasma LCD, ma in generale le TV piatte, le moderne TV, oltre al numero verde 800 24 00 24, esiste anche la possibilità di inviarci un messaggio SMS 349 238 6666, anche se preferiamo sentire la vostra voce. Il nostro esperto, l'esperto di 2024 di audio e video digitale, il direttore di AF Digitale, Gianfranco Giardina. Gianfranco, bentornato 2024. Grazie mille, bentrovati a tutti gli ascoltatori. AF Digitale è in edicola con uno speciale sulla TV dell'anno, quindi 40 pagine dedicate proprio al tema di cui vogliamo parlare oggi a 2024. Dicevo che questo è il desiderio di molti italiani. Grosso modo esistono 40 milioni di TV in Italia, 4 milioni sono quelle che vengono vendute ogni anno, ma tu prima mi dicevi che è proprio l'oggetto del desiderio forse tra tutti i vari prodotti di elettronica di consumo. Beh, sì, forse anche perché è quello che mediamente usiamo di più, proprio in termini di ore di utilizzo, anche forse più del computer, ovviamente se escludiamo gli utilizzi professionali, ecco. Quindi è sicuramente una cosa poiché raduna tutta la famiglia, quindi accomuna nel desiderio tutta la famiglia, e quindi è uno dei prodotti più richiesti. Non a caso è sicuramente il prodotto su cui si sviluppa la maggiore pressione competitiva su tutto il mercato, su tutte le prime pagine dei volantini delle grandi catene e anche della distribuzione alimentare delle volte. Spesso campeggia un televisore. Senti, a proposito di prezzi, visto che c'è così tanta concorrenza sul mercato, tra l'altro dicono i protagonisti del settore, quelli che vendono questi prodotti, che l'Italia è uno dei mercati dove c'è la maggiore competitività e quindi i prezzi si stanno abbassando molto. È vero? E fino a che punto si sono abbassati i prezzi? Si sono abbassati molto di più di quanto si pensasse in realtà anche un anno fa. I prezzi sono scesi, non si capisce se scenderanno ancora. Onestamente, da osservatore esterno immagino che scenderanno ancora un pochino, ma non più di tanto, perché ormai i livelli di prezzo raggiunti anche per i grandi schermi, intendo 40, 42, 46, 50, 52 pollici e anche sopra i 60, è ormai un prezzo a cui 10 anni fa si comprava un 32 pollici a tubo. Sto parlando quindi di comprare un 50, un 60 pollici al prezzo di un 32 a tubo. Nuova tecnologia, prestazioni nettamente superiori, connettività decisamente migliore e prezzi quasi inferiori, quindi credo che sia uno dei pochi settori, quello dell'elettronica e quello dei TV in particolare, dove i prezzi dal passaggio alla lira all'euro e poi in questi ultimi anni invece di crescere siano decresciuti incredibilmente. Noi abbiamo voluto dedicare una puntata di 2024 alla scelta della TV con alcuni consigli che vi daremo nel corso di questa puntata, anche rispondendo poi alle vostre domande, al nostro numero verde, perché questo è un prodotto, Gianfranco, che dura parecchi anni, costa comunque ancora insomma una cifra considerevole, soprattutto se si vuole puntare su un prodotto di qualità, magari una grande TV. Spesso tu noti che l'acquisto venga fatto sulla base di una serie di informazioni o venga fatto sull'emozione? Ma di solito quando una famiglia si appresta a comprare un bene semidurevole come un TV, che dicevamo mediamente dura 10 anni almeno in casa, ma in alcuni casi anche molto di più, l'emotività dovrebbe essere lasciata da parte, o normalmente viene lasciata da parte. Il problema qual è? Che se ci si reca in un negozio mediamente fornito, e il nostro consiglio è quello di andare verso i negozi forniti, perché poi se no si rischia di trovare dei prodotti magari anche un po' vecchi, si trova davanti un muro di 100-120 televisori differenti, solo per parlare dei grandi pollicciaggi, quindi di grandi dimensioni, dai 32 in su. In un panorama così composito e molto complesso, perché comunque le nuove tecnologie, che sono bellissime, che fanno fare delle cose meravigliose a questi TV, ma non hanno semplificato il prodotto, anzi l'hanno complicato un po', rendono questa scelta assai complicata per chi non è appassionato o non ha masticato, diciamo, negli ultimi 2 anni, perché un po' è cambiato tutto negli ultimi 2 anni, le nuove tecnologie relative ai TV. Quindi l'acquisto è un acquisto spesso complicato. Qualcuno dice oramai per comprare un TV bisogna essere degli scienziati. Non ci sono probabilmente 4 milioni di scienziati televisivi, chiamiamoli così, in Italia, però queste TV vengono acquistate. L'amico competente spesso ha un ruolo determinante, nel senso che viene coinvolto per avere un consiglio, l'amico, il collega, per avere un consiglio sull'acquisto, e questo è oggi come oggi il vero modo in cui viene fatto un acquisto consapevole. Spesso e volentieri nei grandi punti vendita non si riesce ad avere l'assistenza necessaria, non fosse altro che si cerca di comprare il TV di sabato pomeriggio e quindi col negozio più affollato possibile, e anche il povero addetto vendite non riesce a dare tutte le spiegazioni che sono tante, appunto, dicevamo, e quindi alcune volte l'acquisto, più che in via diciamo emotiva, viene fatto semplicemente in maniera poco informata, il che significa che ci si fa attrarre molto dal prezzo, perché se non si riesce a capire quali sono le differenze qualitative e di prestazione tra un prodotto e l'altro, beh, sicuramente il prezzo lo capiscono tutti, e quindi molte volte ci si fa catturare da prodotti di primo prezzo. Ci si rende forse poi conto col passare del tempo che magari spendere un po' di più sarebbe stato meglio. Ecco, a proposito di prezzo e di occasioni, di promozioni, è facile o mediamente difficile prendere una fregatura in questo mercato così competitivo? Non è così infrequente, appunto perché le differenze tra i prodotti, che ci sono peraltro, ci sono e sono molto grosse, non sono così facili da comunicare, spesso ci si fa catturare dal prezzo e magari non si capisce, non si sa che si sta comprando un TV magari che ha un anno e mezzo, 2 anni di vita, che è stato lanciato tempo addietro e quindi non è più al passo coi tempi. Il prezzo in questo caso, seguire solo il prezzo è seguire, sì, un cattivo consiglio. Dunque, adesso entriamo nel dettaglio per cominciare a dare ai nostri ascoltatori qualche consiglio per un acquisto intelligente di una moderna TV, plasma o LCD. Tra poco parleremo anche di questa differenza. Sono le 15:36 minuti, vi ricordo che questa è una puntata straordinaria di 2024, in diretta potete partecipare anche voi con le vostre domande al nostro numero gratuito, il numero verde di Radio 24, 800 24 00 24, oppure se preferite inviare un sms 349 238 6666, oppure c'è anche un'altra possibilità, quella di inviarci una email a 2024@radio24.it. Uno dei primi punti, Gianfranco, da tenere in considerazione è quello delle dimensioni della TV, giusto per dirimere alcuni dei primi dubbi. Cosa significa? Beh, il primo punto da cui bisogna partire, o bisognerebbe partire, cioè analizzare qual è la propria distanza di visione. Normalmente non si cambia l'arredamento del salotto perché arriva un TV nuovo. Quindi ognuno a casa propria ha una propria distanza dalla quale guarda o guarderà il TV nuovo. Ecco, c'è, come dire, un comune pensiero molto diffuso che suggerisce di non prendere un TV troppo grande perché questo farebbe male agli occhi. Ecco, questo è una leggenda metropolitana, è un luogo comune, forse poteva essere vero con i primi tubi catodici, più che altro perché l'instabilità dell'immagine, il flickering cosiddetto, poteva forse dar fastidio alla lunga. I nuovi TV non hanno questi problemi, anzi direi che con una TV che è sempre più grafica, basti pensare ai titoli che passano alla base dell'immagine su tutti i TG piuttosto che in moltissime trasmissioni costantemente, quindi c'è da leggere anche la TV, non solo più guardarla. Ecco, un TV troppo piccolo rovina gli occhi, o meglio affatica la vista, quindi il TV va scelto tendenzialmente grande, più grande possibile, non grande all'infinito ovviamente, va da sé, ma un TV diventa non solo accettabile ma confortevole, ha una distanza di visione che sia di almeno due volte la larghezza. Voglio fare un esempio, così sì, andiamo sul concreto. Un 46 subito. Pollici, che è uno dei tagli più diffusi. Fino a qualche tempo fa erano i 42 pollici. Sì, 42, adesso sta avendo un buon successo il 46, proprio perché è un buon compromesso tra le dimensioni, anche non tutti hanno spazio anche per alloggiare poi il TV sul mobile. È una bella TV. Sì. È larga poco più di un metro e due centimetri. Circa un 46 pollici, ecco, a due metri di distanza dà già una visione confortevole. Non andrei oltre i 4 metri di distanza, ecco, sopra i 4 metri sicuramente passerei almeno un 50 pollici. Ecco, le scelte in realtà nel mondo del tubo catodico non erano di questo tipo, ma non era una scelta dell'utente, era una scelta della tecnologia. Il tubo catodico fondamentalmente non andava sopra i 32 pollici, quindi quando uno comprava un grande schermo comprava un TV a 32 pollici, ma oggi per fortuna la tecnologia ci permette di avere delle dimensioni che rendano la TV più confortevole. Ovviamente poi ci sono problemi di ambientazione, il mobile nel quale va inserito, la livreria, eccetera eccetera, che possono poi guidare verso uno o l'altro acquisto. Quindi, anche visto che stiamo parlando di dimensioni di schermo, il consiglio, quando non si è disponibile in negozio, comunque portarsi sempre dietro un metro, magari quelli da Sarta che stanno in borsette, sono piccoli, per prendere le dimensioni e andare in negozio sapendo già quali sono le dimensioni del proprio spazio, per indirizzare la scelta verso i modelli che ci stanno nello spazio che abbiamo a disposizione. Benissimo, magari torneremo anche su questo punto. Grosso modo, Gianfranco, a spanne, per farci capire, un 46 pollici come tu, al quale tu prima facevi riferimento, quanto costa? Ma un 46 pollici costa, diciamo, full HD, poi parliamo di risoluzione, parliamo. Quindi alla massima risoluzione disponibile sul mercato in questo momento costa dai 1.000-1.100 euro in su, e poi parlare di prezzi è sempre molto complicato nel mondo TV, perché poi arrivano le promozioni, le offerte speciali, volantino, e quindi tutto può cambiare. Hai detto bene, parleremo anche di alta definizione, perché questo è un altro trend che sta guidando le vendite e un po' come diceva l'ascoltatore, o meglio la persona che abbiamo sentito nell'intervista iniziale che ha realizzato Paola Nania in giro per le strade di Roma, diceva: non la so definire, ma è alta definizione, che è un buon modo per far capire che sono un barlume di idea la sia. Sono le 15:41 minuti, adesso cerchiamo di rispondere, anche se non entreremo troppo nel dettaglio tecnologico di questa differenza tecnologica, risponderà alla domanda che tutti si fanno: meglio il plasma o l'LCD? Gianfranco Giardina da anni dice non esiste una risposta, esiste un set di risposte. Non lo so tecnicamente, so che l'LCD è meglio del plasma, quindi dovendo comprare una, anche perché il plasma penso che abbia una durata massima di 10 anni. Sì, dicono che poi deve essere ricaricato. Una c'ha delle sabbie che si attivano con la bassa tensione, eccetera, e quell'altra invece non lo so, ma è elettronica. Tra un plasma e un LCD? Ah, peccato. Difficile. Il plasma dentro un liquido che viene eccitato dagli elettroni. plasma, cioè l'LCD è più o meno la stessa cosa, ma è fatto diverso il reticolo che compone l'immagine, qualcosa del genere. Sono due tecnologie diverse, ma le caratteristiche precise non le conosco. E se le chiedessi, è meglio plasma o LCD? Sinceramente non glielo so dire. Si parla, cioè nel senso, ho sentito dire che l'LCD sia migliore per fino a un certo numero di dimensioni, quindi di pollice del televisore, e il plasma per risoluzioni, quindi per dimensioni maggiori. Le 15:42 minuti, questa è Radio 24, siete all'ascolto di 2024, oggi in diretta. Il nostro numero verde è 800 24 0024, chiamateci per le vostre domande, i vostri dubbi sulla tecnologia, sulle tecnologie che compongono le moderne TV. Abbiamo detto, abbiamo fatto queste domande io a Milano, Paola Nania a Roma, ad alcune persone che abbiamo incontrato, per capire se la gente ha le idee chiare su che cos'è il plasma e che cos'è l'LCD. Gianfranco Giardini è il nostro esperto, il direttore di AF Digitale. Gianfranco, in pochi minuti si può rispondere? Beh, si può rispondere che se una tecnologia fosse nettamente migliore dell'altra, quella peggiore non esisterebbe più da tempo. Invece, esistendo entrambe le tecnologie e restando sul mercato, evidentemente ognuna ha i suoi pro e magari anche qualche piccolo contro che fa sì che, insomma, ci sia spazio per entrambi. Dipende molto dal tipo di utilizzo. Le differenze tecnologiche ci sono, anzi, i due pannelli sono radicalmente diversi, non sto a elencarle tutte, dirò comunque soltanto, non c'è la sabbia dentro. Non c'è la sabbia e va detto anche che il plasma non va ricaricato e non si ricarica, non è un condizionatore da automobile, sì, che si può, in cui si può ricaricare il gas, peraltro neanche si scarica, quindi è un problema. Ma è una leggenda metropolitana anche quella, una delle tante che girano sui prodotti di elettronica. E la maggior differenza, se proprio vogliamo vederla così, è che il plasma è cosiddetto, dico una locuzione in inglese, ma è self-emitting, quindi emette autonomamente la luce che compone l'immagine, è il pannello che emette luce, mentre l'LCD non ha questa caratteristica, quindi il pannello si polarizza, si depolarizza facendo passare più o meno la luce, ma c'è una retroilluminazione, quindi delle lampade che illuminano l'LCD. Questo dà dei vantaggi e degli svantaggi. Tipicamente nelle primissime generazioni di LCD il nero non era un nero così profondo, perché avendo la luce, come dire, sempre accesa, anche quando schermavano tutta la luce, un po' di questa passava, e quindi il problema dell'LCD classico, uno dei problemi vecchi di qualche anno fa stiamo parlando, era che il nero era un po' grigio. Il plasma invece ha altri problemi, per esempio consuma un po' di più, perché le tensioni in gioco sono sicuramente più alte, quindi un passante intervistato parlava di basse tensioni, ecco, non è vero, nel plasma ci sono delle alte tensioni che nell'LCD non ci sono, quindi l'LCD ha dei consumi mediamente più contenuti. Poi i prodotti migliorano anno dopo anno, gli LCD sono diventati dei televisori splendidi anche sulle grandi dimensioni. Ricordiamo che l'LCD partiva dalle piccolissime dimensioni, il primo LCD fatto è un display per una calcolatrice, mentre i plasma partono dalle grandi dimensioni. Oramai si sono incontrati, ci sono plasma LCD più o meno delle stesse dimensioni, sapendo che fondamentalmente il plasma sotto i 42 o i 37 al minimo non si va, mentre l'LCD offre una gamma più completa, dai piccolissimi fino ai 60 pollici, anche di più. Ricordo che anche questa puntata di 2024 sarà disponibile sul nostro sito internet www.radio24.it. Vi consiglio sempre di abbonarvi al nostro servizio gratuito podcast per scaricare e aggiornare settimana dopo settimana la nostra puntata. La nostra email è 2024@radio24.it. Oggi puntata speciale dedicata alla TV dei desideri. Oramai le TV sono solo TV moderne e piatte in 16 noni. I nostri ascoltatori al nostro numero verde. Saluto Ivo che ci telefona da Iesi. Buongiorno. Buongiorno a voi. Io posso una domanda abbastanza semplice, però ancora, insomma, penso che sia attuale. Io possiedo ancora un tubo catodico, uno di alta qualità a 100 Hz, e vorrei sapere se ad oggi, con le trasmissioni che abbiamo, se sia il plasma o il LCD sono competitivi con la forma del tubo catodico a 100 Hz. Questa è un'ottima domanda. Grazie Ivo, buona giornata e buon ascolto. Questa è un'ottima domanda, Gianfranco, perché effettivamente io mi ricordo le tue risposte fino a qualche mese fa, e da un po' che non ci occupiamo di TV, tu dicevi che ancora qualche mese fa la tecnologia a tubo non era superata né dal plasma né dall'LCD. Oggi, e giustamente Ivo faceva riferimento alle trasmissioni che noi abbiamo, perché stiamo effettivamente passando al digitale terrestre, eccetera, eccetera, ma che cosa rispondiamo? Ma rispondiamo che la qualità del tubo catodico e dei migliori tubi catodici va da sé, è sicuramente molto alta in termini di qualità d'immagine su trasmissioni televisive in formato PAL, quindi quelle comuni, Rai 1, Rai 2, quelle che guardiamo adesso in standard definition cosiddette. Di certo un TV tubo catodico, salvo rarissimi eccezioni, non è in condizione di visualizzare l'alta definizione, per esempio, quindi non è più un TV al passo coi tempi, quindi non va bene per collegare delle videocamere ad alta definizione, un computer, delle console come PlayStation 3 o Xbox 360 che permettono di uscire in alta definizione. Se il problema è solo quello di vedere i canali in standard definition, anche se è un problema che durerà in realtà per poco tempo, perché poi auspicabilmente si passerà tutto in alta definizione, il tubo catodico fornisce ottime prestazioni. Va detto però che lo schermo, come dicevamo prima, non è grande, è normalmente un 32 pollici. Qualcuno passando ai TV digitali resta deluso per la qualità d'immagine, ma in realtà perché passa magari da un 32 pollici a un 50 pollici ed ecco che l'immagine è molto più grande, di conseguenza a parità di risoluzione apparirà più sgranata. Va detta un'altra cosa: per chi ha dei segnali di antenna non perfetti, quindi con un po' di sdoppiamento, un po' di quella che viene chiamata la neve, i vari puntini che compaiono sull'immagine, ecco, un tubo catodico maschera molto bene questi difetti del segnale, sono dei difetti del segnale. Un TV LCD non li maschera affatto, quindi li fa vedere in maniera forse anche un pochino amplificata. Un TV al plasma è un po' una via di mezzo, anche se, ripeto, siccome il plasma c'è da 42 pollici in su, anche 37, ma generalmente 42 pollici in su, vedremo l'immagine molto grande e questo fa sì che comunque il difetto resti visibile. Quindi anche qui, con il passaggio al digitale terrestre, quindi a trasmissioni digitali, questi problemi non dovrebbero essercene più e quindi la qualità d'immagine è assolutamente ottima anche sui TV digitali. Io in questo momento mi sento, per questo motivo ma per mille altri motivi, di consigliare il passaggio a un TV digitale. Oramai il tubo catodico, anche se ha la qualità d'immagine molto buona, è un prodotto superato. Non c'è. Senti, questa caratteristica dei 100 Hz che veniva pubblicizzata molto quando si parlava di tubo catodico, ha ancora un senso con gli LCD e i plasma? Forse con i plasma nulla. Ma è stata riapplicata sui TV digitali come nome, si chiama 100 Hz, addirittura in alcuni casi anche 200 Hz, adesso si sente parlare, ma la tecnologia è fondamentalmente è molto diversa, o diciamo abbastanza diversa, perché anche qui ci sono dei dettagli tecnici nei quali non entro magari in questa sede. Se sul tubo catodico un 100 Hz poteva essere utile, forse su un TV digitale diciamo lo è molto meno. Io tendo a vedere questi circuiti 100 Hz, 200 Hz sui TV digitali più come una manovra di marketing lecitissima, peraltro corretta, il circuito c'è effettivamente, ma la loro utilità pratica è dubbia. Una cosa sola, bisogna stare attenti perché che quando si compra un TV magari col circuito 100 Hz o 200 Hz, che questo sia disinseribile, perché in alcuni casi, con alcuni contenuti, questi circuiti possono dare anche degli effetti collaterali abbastanza fastidiosi. Quindi che l'utente abbia sempre la possibilità, se vuole, di disinserirlo. Sì. Francesco da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Grazie di essere con noi. Prego. Grazie, grazie. Sentite una cosa, volevo sapere, tanto l'italiano ancora, penso all'80% vecchi televisori, no? Cioè analogici si chiamano? Sì, sì, sì. No. Sì. Che fine faranno? Cioè, poi non riceveranno più il segnale quando sarà il digitale terrestre. Sì, sì. E poi l'ultima, ma questo esula dal TV, se fate un accenno al DAB, alla radio. Sì, ha fatto bene. Allora, un mese fa circa, adesso vado a memoria, abbiamo parlato del DAB. Riproporremo un'intervista sul DAB, magari mettendo assieme anche altre informazioni sul DAB verso la fine dell'anno, attorno a Natale. Dico agli ascoltatori, e chiudo così la parentesi, che ancora questa è una tecnologia per la digitalizzazione della radio in via sperimentale, anche se è possibile acquistare una radio DAB e ascoltare in buona parte d'Italia i canali in tecnologia digitale terrestre per la radio, e anche Radio 24 sta sperimentando questa tecnologia. Dunque Gianfranco, per chi ha una TV che riceve segnali analogici al 2012, vabbè, in Sardegna è già successo e anche in sì, sta succedendo anche in Val d'Aosta, sì. C'è un calendario, poi area per area passerà tutto a digitale terrestre e verranno spente trasmissioni analogiche. Allora, chiariamo una cosa: nessun TV diventerà di per sé obsoleto col passaggio al digitale, al solo digitale. Semplicemente i TV che non integrano un tuner, quindi un sintonizzatore digitale terrestre, dovranno essere affiancati con un ricevitore esterno, un decoder, come tantissimi italiani hanno. Quindi si può continuare a tenere il vecchio TV, però si agirà sul decoder, sul telecomando del decoder, cioè il canale non si cambierà più sul telecomando del TV ma su quello del decoder, e questo permetterà di tenere comunque in vita dei TV. Poi col naturale ricambio, presto o tardi, ma probabilmente anche abbastanza presto, la stragrande maggioranza dei TV avranno il decoder integrato, di fatto, quindi il tuner integrato. Va detto che praticamente con il 2009 non potranno più essere posti in vendita TV privi di sintonizzatore digitale, quindi i TV solo analogici non saranno più in vendita. Quindi ti faccio una domanda: se io oggi trovo, visto che dal primo gennaio non potranno più essere messi in vendita, se io oggi trovo una TV plasma, LCD che sia, che non ha il sintonizzatore per il digitale terrestre, che quindi deve essere accoppiata ad un decoder esterno, potrei trovare un'occasione? Assolutamente sì, in questo momento è molto facile anche trovare questi TV, perché li si identifica velocemente in negozio. Infatti per legge devono riportare una grande etichetta bianca con su scritto che questo TV non è autonomamente in condizione di ricevere trasmissioni in tecnica digitale. Ecco, questi TV però sono TV buoni, spesso perfettamente funzionanti, anche attuali, però non hanno questo decoder integrato. Chi si accontenta di avere un box esterno, quindi un decoder esterno, può sicuramente cercare un affare entro fine anno. Con l'anno nuovo non potrà più farli, perché non potranno essere messi in vendita. Bene, sentiamo Marco da Como. Buongiorno Marco. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie molte. Lei ha una radio accesa vicina a lei, che sì, si sente, ecco, se la può abbassare come volume, la ringraziamo, prego. Sì, grazie. Volevo chiedere se può essere un parametro valido quello di guardare il tempo di risposta dei televisori, e tra l'altro se c'è differenza tra quelli nei monitor LCD e quelli a plasma, che ho visto che c'è parecchia differenza. Se può essere un parametro valido per controllare eventualmente un acquisto. Molto bene, la ringraziamo e le auguriamo buon ascolto, Gianfranco. Il tempo di risposta è importantissimo per i TV a cristalli liquidi ed è fondamentalmente il tempo in cui il pixel, cioè quindi il singolo elemento dell'immagine, riesce a cambiare stato, per esempio passare da bianco a nero. Quindi se un tempo di risposta è troppo lento, l'immagine tende a essere un po' meno nitida, un po' meno a fuoco sui movimenti, o addirittura, peggio ancora, creare delle scie. Questo non accade più da tempo con i migliori TV, che ormai hanno raggiunto tempi di risposta assolutamente ottimi. Va anche detto che il tempo di risposta è una dichiarazione del produttore e non è un dato oggettivo, quindi vai a sapere poi se i 5 millisecondi, 6 millisecondi o gli 8 millisecondi dichiarati sono poi reali. Qui è il miglior strumento, è lo strumento che utilizzeremo poi per utilizzare il TV tutti i giorni, cioè il nostro occhio. Guardiamo il TV molto attentamente prima di comprarlo, soprattutto sulle scene in movimento. I plasma hanno dei tempi di risposta molto più bassi, non hanno questo tipo di problemi, magari ne hanno altri, ma non il tempo di risposta. Tra poco ci sarà il giornale radio GR24, noi continueremo anche nella seconda parte con questa puntata speciale di 2024 dedicata alle TV piatte, uno degli oggetti del desiderio. Pare che beh, più che pare è abbastanza certo che i consumi per il prossimo Natale stiano calando, questo invece non sta succedendo per l'elettronica di consumo in generale, in modo particolare per i televisori. Cercheremo di rispondere anche ad alcune domande o dare alcuni consigli. Ad esempio Gianfranco Giardina dice: fate attenzione non alle, solo alle solite caratteristiche, ma ad esempio controllate il telecomando, cercate di stare attenti anche all'audio, tutte cose importanti. 2024. Sono le 16:06, puntata straordinaria di 2024, oggi in diretta con gli ascoltatori al nostro numero verde, ne ascolteremo tra poco alcuni, una puntata speciale dedicata all'oggetto del desiderio di molti italiani, le TV piatte, plasma o LCD. Abbiamo parlato della differenza tra queste due tecnologie poco fa, potremmo effettivamente dedicare un'unica puntata a questa differenza. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro esperto di audio e di video digitale. Gianfranco Giardina, direttore di AF Digitale, sicuramente la più autorevole rivista di audio e video digitale in Italia. Dunque Gianfranco, dicevamo che questo è un oggetto del desiderio perché molti sono gli italiani che vorrebbero acquistare e passare a questa nuova tecnologia, ovvero alle moderne TV che permettono di avvicinarsi anche all'alta definizione. Abbiamo un ascoltatore, lo sentiamo subito. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Prego. Senta, una domanda. Per quanto riguarda il problema degli LCD sulle immagini statiche, se si visualizzano per troppo tempo, come mai nei monitor dei PC non c'è questo problema, invece nei televisori sì? Perché non si può risolvere? Bene, grazie Davide per la sua domanda. Gianfranco. Il problema citato al nostro ascoltatore è il problema della persistenza dell'immagine, che non affligge gli LCD. Ecco perché sui monitor per PC il problema non c'è, ma è un limite della tecnologia al plasma. Sui TV al plasma, soprattutto sui pannelli vecchi o di cattiva qualità, perché quelli nuovi sono molto meglio, se si lascia un'immagine fissa per moltissimo tempo, come potrebbe essere per esempio il desktop di un PC, no? Con tutta l'interfaccia e tutti i tasti di interfaccia sempre allo stesso posto, ecco che per qualche tempo dopo, quindi per qualche ora successiva a questa visione, potrebbe essere come dire, visibile un'ombra, una specie di timbro lontano della vecchia immagine visualizzata per tanto tempo, appunto questo difetto della persistenza. Con un utilizzo, i nuovi pannelli sono attrezzati per limitare questo problema, vanno forse trattati con più attenzione nelle prime 100-200 ore di funzionamento. Poi, come dire, con un minimo di rodaggio i pixel non hanno più questo difetto e nel giro di qualche tempo di visione, come dire, libera di immagini in costante divenire, ecco che il problema scompare. Questo però fa sì che il plasma non sia consigliabile come tecnologia per degli accaniti, per esempio, videogiocatori, perché normalmente l'interfaccia di un videogame ha degli elementi grafici sempre fissi, il punteggio, alcuni aspetti proprio grafici, come anche per chi utilizza molto il computer collegato al TV, mentre va benissimo per chi guarda film, TV, trasmissioni di TV normali, eccetera, non avrà mai questo difetto, salvo i rari casi, ma capitano, in cui qualcuno tenga sempre o prevalentemente sempre un canale che ha un logo molto bianco. Ecco, se voi prendete, noi stiamo facendo un'inchiesta proprio a questo proposito, per esempio i canali Mediaset, Rete 4, Canale 5, Tele 1, hanno un logo, se lo vedete, in trasparenza, quindi non è completamente bianco. I canali Rai, per esempio, hanno il loghino del canale completamente bianco. Alcuni canali di Sky, come Sky Sport, tendono a stamparsi sui TV al plasma. Noi stiamo chiedendo a tutte le emittenti di passare, come peraltro in tutto il resto del mondo, a dei loghi assolutamente in trasparenza che non possono danneggiare il TV. Quindi non sono solo gli italiani mediamente a essere tecnologicamente poco alfabetizzati, ma anche chi produce i programmi televisivi. Sì, ahimè, tutte le emittenti che stiamo sentendo, in molte ci dicono che non erano neanche minimamente a conoscenza del problema. Andiamo bene. Claudio da Milano, buongiorno. Buongiorno, grazie per l'opportunità. Grazie a lei. Dunque, la mia domanda è questa. Disponendo di un TV, un LCD Full HD 1080, Ora, e ovviamente riceve sia l'analogico che il digitale, però ho la sensazione, almeno avendo sentito anche un po' all'estero così, dove si dà molta enfasi a questo fatto, cioè con l'avvento del digitale, unicamente del digitale, la funzionalità HD non va più bene, se ho capito bene. Cioè va bene per l'analogico, ma per il digitale ci vuole un TV predisposto per poterlo ricevere in HD. Mi confermate che è così oppure non ho inteso bene quanto ho sentito in giro? Claudio, grazie per la sua domanda. Gianfranco Giardina ha ben compreso qual è il problema. Gianfranco. Ha capito male, ecco, diciamo così. Il suo TV è assolutamente abilitato a vedere... a visualizzare programmi in alta definizione, sia che vengano da Blu-ray disc, sia che vengano da satellite, sia che vengano da digitale terrestre. Il problema quale può essere? Il sintonizzatore interno. E questo è un altro aspetto da vedere quando si acquista il TV. Il sintonizzatore interno analogico è quello tradizionale, il digitale è quello che permette di vedere i canali digitale terrestre in standard definition, in definizione standard, poi c'è, come dire, un upgrade, un livello in più, che è il sintonizzatore digitale, che è in grado anche di visualizzare le trasmissioni in digitale, in tecnica digitale terrestre, in alta definizione, che Rai ha iniziato a sperimentare con gli europei di calcio, i mondiali di ciclismo, la Champions League e altri eventi che sta mandando in aree selezionate in questo momento in alta definizione. Prima o tardi arriveranno, secondo le promesse di Rai, entro la fine della primavera dovrebbero iniziare nelle aree selezionate delle trasmissioni regolari in alta definizione. Il suo TV, che non sappiamo qual è in questo momento, potrebbe non essere equipaggiato con questa funzionalità, cioè la funzionalità di sintonizzare i canali, ma nulla le vieta in un futuro di acquistare un decoder esterno per questo tipo di trasmissioni e collegarlo su TV e vederle regolarmente. Qui la differenza è se la funzionalità è già integrata nel TV o se bisogna comprare un decoder esterno. Chiaramente tutti preferirebbero avere la funzionalità integrata nel TV, ma va detto che i primi TV con questa funzionalità, che peraltro sono ormai abbastanza diffusi, sono arrivati 8-10 mesi fa, appena la Rai ha annunciato che avrebbe fatto questo tipo di trasmissioni. Quindi un nostro ascoltatore che ci scrive un'email, Davide, dice: posseggo una TV con decoder digitale terrestre HD integrato. Volevo sapere se è vero che tra un po' dovrebbe uscire una seconda generazione che renderà inutile il mio. Può essere vero? In questo momento assolutamente no, ancora stiamo aspettando la prima generazione, okay. Stiamo aspettando che le trasmissioni inizino, anche se è stato standardizzato di recente lo standard DVB-T, quindi lo standard digitale terrestre DVB-T 2, quindi un'evoluzione dell'attuale standard digitale terrestre che probabilmente renderà questi tuner non più utilizzabili con le trasmissioni, quando e se queste trasmissioni arriveranno, non credo prima di 7-8 anni da oggi. Ecco. Allora, dunque, tra poco sentiremo un altro dei nostri ascoltatori, volevo anche leggere qualche SMS. C'è un nostro ascoltatore che si lamenta perché dice: ho visto una partita in alta definizione su un TV LCD e invece dice: secondo me il tubo catodico è più nitido, si vede meglio, eccetera eccetera. Può essere vero, Gianfranco? Cioè, sicuramente è vero, perché il nostro ascoltatore si lamenta, l'ha visto, ma può essere vero per un motivo semplice. Allora, sicuramente l'alta definizione è nettamente meglio della standard definition, e una partita in alta definizione, soprattutto la partita che ha dei piccoli dettagli da vedere, il pallone, i piedi, le gambe, ecco, sicuramente una partita si vede molto meglio in alta definizione. L'esperienza del nostro ascoltatore cosa dimostra? Che esistono TV molto validi, esistono TV sempre in alta definizione, sempre full HD, che così validi non sono, che rischiano per eccessive economie di come dire, invalidare completamente tutti i vantaggi che comunque il segnale ha. Quindi io direi sicuramente l'esperienza, non abbiamo motivo di non credere, l'esperienza del nostro ascoltatore è vera, è genuina, però probabilmente questo ci insegna anche che esistono differenze qualitative importanti tra TV e TV, e scegliere solo in base al prezzo è un errore. Oggi con noi in questa puntata speciale in diretta di 2024 Gianfranco Giardina, il direttore di AF Digitale, che a proposito di TV propone nel numero che è in edicola una prova comparativa degli 8 TV più caldi della stagione. Gianfranco, voi mettete tutte le caratteristiche, insomma, parlate ampiamente di queste 8 TV. Tu dicevi che in un negozio, una grande superficie, mediamente ci sono addirittura 100 prodotti diversi tra schermi al plasma ed LCD. Che cosa guardare quando si entra in un negozio? C'è un cartellino con le caratteristiche. Quali sono le più importanti, quelle a cui fare attenzione? Domanda molto difficile questa. In realtà potremmo partire da cosa forse non vale più la pena di guardare, perché i cartellini, ahimè, spesso sono fatti in una maniera abbastanza standardizzata, riportano dei dati dichiarati di fabbrica, ma questi oramai non sono più indicativi. Faccio un esempio: il rapporto di contrasto, che è uno dei più utilizzati, no? Si era partiti con il rapporto di contrasto di 1001, 2001, 5001, 10001, adesso siamo arrivati a sentire parlare di rapporti di contrasto di 500.000 a 1. Io devo ancora capire che cos'è. Il rapporto di contrasto è semplicemente la differenza, il rapporto che c'è tra l'immagine bianca, il miglior bianco visualizzabile dal TV, e il miglior nero. Più distanza c'è, più vuol dire che ha gamma dinamica il nostro TV. Ecco, purtroppo esistono tanti modi diversi di misurare il rapporto di contrasto. E pur di avere un valore più alto, di competere, perché ahimè la competizione spinge anche a questi eccessi, via via le dichiarazioni dei produttori sono diventate sempre meno realistiche, soprattutto di alcuni produttori. Insomma, quello che succedeva fino a poco tempo fa con i megahertz, i gigahertz dei computer, processori. Sì, o con i watt degli amplificatori. Ecco, insomma, oggi come oggi un rapporto di contrasto in realtà di 500.000 a 1 non ha più senso. Quelli che misuriamo noi, che sono misurati con la stessa metodologia, strumentalmente, in maniera strumentalmente corretta, su un TV calibrato, vanno intorno ai 1500-2001. Questo è un rapporto di contrasto vero di un TV. Basti pensare che un tubo catodico, no, ha un rapporto di contrasto di 101, 151, eppure tutti, anche oggi gli ascoltatori, ci hanno detto che si vedono molto bene. Quello che è importante vedere è il nero, non tanto il rapporto di contrasto, quindi la qualità del nero. Aspettare di vedere nelle immagini che ruotano su tutti i TV delle immagini scure e poi vedere come si vede questo scuro. Il nero, quello che deve essere veramente nero, deve vedersi molto scuro, assolutamente, se possibile nero, e però malgrado questo non bisogna perdere le sfumature sugli scuri, cioè un dettaglio su una giacca scura deve essere comunque visibile, non deve essere troppo chiuso. Se io vedo del grigio, troppo grigio, anche dove dovrebbe essere nero, oppure vedo delle macchie nere dove dovrei vedere delle sfumature, ecco, quei TV non vanno bene. Quello è molto più importante, qualsiasi dichiarazione del rapporto di contrasto. Stesso dicasi per la luminosità, che spesso viene dichiarata su un TV, soprattutto se è un TV del salotto, che spesso viene visto in momenti serali con una illuminazione magari solo parziale della stanza. La luminosità non è un parametro importante. Peccato che, ahimè, in negozio, quando abbiamo davanti una parete di TV, il nostro sistema percettivo, che si voglia o che non si voglia, viene catturato dai TV che hanno una luminosità più spiccata e dei colori più vivaci. Anche se la luminosità è assolutamente eccessiva e magari poi portata alla nostra stanza ci abbaglia e i colori sono assolutamente naturali. Bisogna vivere questo momento con un attimo di senso critico in più, quindi evitare di farsi catturare necessariamente dal TV più luminoso, quando la luminosità poi non serve, o invece ancora dobbiamo accendere una luce ambiente per non farci infastidire troppo dal TV, e dai colori troppo vivaci, che poi sono assolutamente naturali. Il nostro mondo è fatto di colori vivaci, ma anche di colori tenui. Senti, oggi ci sono TV molto sottili, questo incide sulla qualità? Cioè, troppo sottile corrisponde anche a una bassa qualità, oppure non c'entra nulla? No, non c'è un legame specifico. Di solito molto sottile corrisponde in realtà a un prezzo più alto, in considerazione del fatto che è più difficile fare una retroilluminazione, parlo per gli LCD, una retroilluminazione così sottile, e anche ci sono problemi di ingegnerizzazione. Il design, diciamo, già il passaggio al tubo catodico, agli schermi piatti, è stata una rivoluzione. In termini di design, i TV sottili però sono molto belli. Basta andare a vederli in negozio per rendersi conto, quella è una caratteristica, ecco, che per fortuna al di là del cartellino si vede subito, per rendersi conto di quanto possono essere belli, soprattutto se non sono posizionati a ridosso di una parete, ma magari sono in un punto centrale della stanza o sono anche visibili dal fianco o da dietro. Tu dici fare caso, anche se è difficile nei grandi negozi, fare caso all'audio. che è altrettanto importante, cioè un conto è vedere solo, un conto è vedere e sentire con buona qualità. Eh sì, anche perché se si sente, se l'audio è scadente, non è che si sente male e basta, si tenderà ad alzare il volume per riuscire a capire le parole, per renderle l'audio intelligibile, e questo porterà magari ad avere anche problemi con i vicini e in condominio ahimè ci sono, mentre un audio qualitativamente buono permette all'ascoltatore, diciamo allo spettatore, di sentire bene anche con volumi più bassi. Provarlo in negozio non è sempre facile, bisogna chiedere però all'addetto vendita che abbiamo di fronte di farlo. Stesso dicasi per il telecomando, è forse l'unica cosa che toccheremo nei 10 anni e più di utilizzo del TV. È bene chiedere all'addetto vendita di farsi mostrare il telecomando, che normalmente non viene esposto perché sennò verrebbe rubato, ecco, molto semplicemente, ma comunque bisogna chiedere di vederlo. Come anche, una volta che si ha il telecomando in mano, bisogna anche provare la semplice operazione di zapping, di cambiare canale. Ah, questa è bella. Perché, ahimè, alcuni TV digitali hanno dei tempi di cambio canale abbastanza lunghi, nell'ordine anche di un secondo o frazioni importanti di secondo, contrariamente magari a quello che avveniva col tubo catodico, dove il cambio canale spesso era magari anche un po' disturbato nell'immagine, si sentiva un piccolo zot, ma comunque era istantaneo. Ecco, poi nell'operazione, nell'utilizzo di tutti i giorni, avere un TV che cambia lento canale diventa molto fastidioso, soprattutto con i tanti canali che abbiamo a disposizione adesso, anche col digitale terrestre. Sono le 16:23 minuti, abbiamo ancora 5 minuti prima di concludere questa puntata di 2024. Saluto Salvatore che ci telefona da Chieti. Buongiorno Salvatore. Buongiorno a voi. Ho due quesiti da porvi. Vorrei passare a questa nuova tecnologia e sarei indeciso di comprare un televisore che includa anche la camo per il digitale terrestre oppure comprare a parte il decoder. E un'altra domanda, volendolo sfruttare anche come monitor per il PC, se c'è una misura in pollici indicata oppure qualche caratteristica per cui possa funzionare al meglio. Bene, grazie Salvatore. Dunque, ha citato il nostro ascoltatore la cam e ha citato il digitale terrestre. Abbiamo detto che per visualizzare i programmi in digitale terrestre o il TV ha il sintonizzatore integrato oppure è necessario un decoder esterno, ma tu hai anche ricordato che dal prossimo anno tutte le TV vendute dovranno integrare il ricevitore per il digitale terrestre, quindi uno non farà altro che guardare la TV come faceva con il sistema analogico. Che cos'è questa cam? Allora, la cam è una piccola scheda che si inserisce nel pannello posteriore di moltissimi TV che sono compatibili appunto con questa cam, che permette di acquistare eventi in pay per view. Il sintonizzatore presente nei TV, all'interno dei TV, è un sintonizzatore digitale terrestre a tutti gli effetti, perfettamente funzionante, ma cosiddetto zapper, permette di sintonizzare tutti i canali e di cambiare canale, ma non permette le applicazioni interattive. L'applicazione interattiva più utilizzata in assoluto è l'acquisto degli eventi in pay per view, tipicamente della partita di calcio in digitale terrestre. Ecco, questo con un TV standard, diciamo così, non si può fare perché ci vuole un decoder esterno. Per chi non vuole avere il decoder esterno ma vuole continuare a comprare gli eventi in pay per view, questa cam viene in soccorso. Il produttore della cam è soltanto uno, quindi tutti i TV che sono compatibili possono utilizzare la stessa cam. C'è un bollino bianco con il logo di GTV su tutti i TV che certifica che il TV è compatibile con la cam, e questo appunto permette di eliminare un telecomando, eliminare un box interattivo, eliminare una serie, anche i cavi, e quindi semplificare molto la vita. Bisogna dire, per onestà e per chiarezza, che il decoder esterno fornisce delle funzionalità ancora aggiuntive, tipo le funzionalità interattive, il televideo più evoluto, le possibilità di fare il televoto, il T-government, eccetera, eccetera. Funzionalità però che, a onor del vero, il mercato fino ad oggi ha dimostrato di non gradire, o quantomeno di non essere interessato. Quindi, siccome la stragrande maggioranza degli utilizzi della TV interattiva è per l'acquisto degli eventi in pay per view, ecco che chi compra un TV con la cam o decide di comprare un TV compatibile e magari acquistare la cam in un secondo tempo, può evitare di avere un box interattivo anche nell'acquisto dei programmi pay per view. Spero di essere stato più chiaro possibile. Sul discorso del usare il TV come monitor per PC, 10 secondi, va benissimo un TV, meglio se un LCD, l'abbiamo detto, e visto che l'interfaccia del PC è un'interfaccia di prossimità, quindi con caratteri molto piccoli, il nostro consiglio è quello di andare su TV grandi, cioè evitare di usare il PC dal divano con un 32 pollici. Beh, probabilmente ci vuole un 50 pollici. Meglio se è LCD in questo caso, abbiamo detto, perché va collegato al computer, non è in generale meglio. Perché va collegato al computer, sì. Benissimo, io ringrazio Gianfranco Giardina, direttore di AF Digitale, per essere stato con noi. Grazie anche agli ascoltatori, moltissimi che ci hanno chiamato, ci scusiamo per quelli che non hanno potuto parlare in diretta con noi, cercheremo di riproporre una puntata simile nelle prossime settimane di 2024, grazie a Luigi Borghi, molto impegnato non solo in redazione ma oggi anche al telefono, e anche Giacomo Spunta che si è occupato della parte tecnica. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Gianfranco, grazie di essere stato con noi, ciao. Grazie mille. Noi ci risentiamo la prossima settimana, sempre il sabato, nel pomeriggio di Radio 24, tra le 15.30 e le 16.30. You are disconnected.